spento la televisione di domenica. Ho smesso di pensare di nascosto. Ho messo il mio cervello sotto l'acqua. E dopo 7 giorni l'ho rimesso a posto. Adesso tu mi sembri così stanca. Ti spezzi e ti preoccupi per niente. Non mi ricordo cosa cercavamo quando eravamo solo il venditore e il suo cliente. Fatto per i deboli. Te l'hanno ripetuto e l'hai imparato. I deboli si arrendono e regalano l'applauso a chi è più forte. Se l'è sposato. Lo vedo camminare sopra un filo. E sotto siamo noi che lo guardiamo. In tasca abbiamo tutti delle forbici, mentre lo guardiamo stiamo fermi e non le usiamo. La televisione di domenica. Ho smesso di pensare di nascosto. Ho messo il mio cervello sotto l'acqua. E dopo 7 giorni